tempi e Sì. dei temi, vero? Innanzitutto spero di non approfittare troppo della pazienza dei presenti, se aggiungerò qualche considerazione, un minuto, non di più, oltre alle considerazioni da dedicare ai due libri. Un minuto solo per ringraziare Monsignor Roger, che ha già ripetuto adesso che sono un fedelissimo dell'Istituto, e questo lo ringrazio. Infatti non ho i 30 anni di amicizia dell'Avvocato Minelli, ma insomma sono fedelissimo per quanto è stato possibile, e ringrazio l'Istituto perché mi ha permesso di avere rapporti con gli studiosi di qui, giovani e meno giovani. Alcuni li ho conosciuto già da tempo, adesso hanno acquistato appunto una posizione accademica di rilievo, e ne verranno anche degli altri naturalmente. E devo ringraziare anche Donzani, che appunto nel corso di cui è il responsabile ha voluto appunto usufruire della mia limitata competenza. Ringrazio anche gli studenti, con i quali naturalmente si ha sempre quel rapporto così un po' complesso che si ha tra professori e studenti. Il professore talvolta trova che lo studente è un po' distratto, un pochino magari disattento, e lo studente trova che il professore talvolta è un po' noioso ed è così, potrebbe essere un pochino più simpatico. Questo fa parte del gioco delle cose, insomma. E così concludo per quello che riguarda la mia partecipazione a questo istituto, che comunque costituisce una parte molto importante dell'esperienza della mia vita. Non posso però terminare senza ricordare una persona che è stata, oltre che docente, anche e soprattutto amico, cioè Gianni Menestrina, al quale ricorro soprattutto non solo per la competenza nel campo dei miei studi, ma anche per una competenza che tutti noi conosciamo, e cioè la competenza nell'ambito dei computer, che soltanto lui può conoscere. E adesso, per tornare a quello di cui veramente ho l'obbligo, di cui mi corre l'obbligo, questi due volumi che sono stati, certo, di cui il primo è stato reso possibile dalla generosità e dall'interesse dell'Istituto di Scienze Religiose, sia per quello che riguarda la preparazione del convegno, sia per quello che riguarda la stampa degli atti, e cioè quello sulla traduzione dei testi religiosi. E è stato pensato da me, appunto dall'amico Menestrina, in considerazione del fatto che in questi ultimi decenni studi sulla traduzione in quanto tale, sul piano teorico e anche sul piano pratico, sono stati presentati più di una volta, ma ci sembrava che mancasse proprio uno studio sulla traduzione dei testi religiosi. E uno studio, infatti, in questo modo è un volume di atti dedicato a un problema, quindi non è uno studio organico, ma tende all'organicità. È uno studio che può a talora apparire, non dico un poco disperso, ma ha una sua logica interna. E la traduzione dei testi religiosi, in quanto il testo religioso per eccellenza, cioè la Bibbia, è soprattutto una traduzione, almeno tutta una serie di traduzioni, dall'ebraico in greco, dal greco in latino, dal latino delle lingue moderne, quindi il problema si pone senza dubbio. E a questo riguardo devo dire, tanto per parlare proprio degli ultimissimi anni, che due contributi, quello di Carlo Buzzetti e di Rinaldo Falsini, sono stati almeno contributi che si sono, come dire, ho potuto contare, in quanto organizzatore del convegno, sulla collaborazione di Buzzetti e di Falsini, grazie proprio all'intervento di Donzani, che ancora una volta ringrazio, perché si tratta di contributi specifici nell'ambito di determinate ricerche moderne. Buzzetti: quale traduzione della Bibbia usiamo? Note per una classificazione dei tipi in quattro modelli. Quindi è evidente che il problema della traduzione della Bibbia nella lingua italiana si è posto da vari punti di vista, e non solo dal punto di vista letterario, su cui finora abbiamo soprattutto insistito, ma proprio della necessità della conoscenza a ampi strati del mondo cristiano. E poi, invece, più storico, il contributo di Falsini, la recente versione dei testi liturgici in lingua italiana. Perché dico più storico? Perché Falsini ci ha presentato in che modo si è giunti, attraverso una serie di tentativi o anche sconfessioni, tentativi successivi, si è giunti appunto a presentare in lingua italiana i testi liturgici, quelli soprattutto nell'ambito quelli che costituiscono la messa. E quindi due contributi, questi diciamo di piena attualità, certo, che nel volume costituiscono la parte, rientrano nella prima parte, diciamo così. Qual è la prima parte in forma ideale? È la parte dedicata proprio alla Bibbia in quanto tale, e quindi la Bibbia presente logicamente nelle forme liturgiche italiane. E siccome il primo testo, il testo religioso per eccellenza, appunto, è la Bibbia, ecco che qui abbiamo la competenza di Paolo De Benedetti, che ci informa mediante alcune considerazioni sulle versioni bibliche nella tradizione ebraica. È una cosa tutta nuova, direi, almeno per me, per molta parte del pubblico, io credo. Quindi le versioni nella tradizione ebraica, non nelle nostre tradizioni occidentali delle lingue moderne, o magari latino o greco, ma all'interno stesso della tradizione ebraica. Così come è dedicata alla diffusione della Bibbia, alle traduzioni della Bibbia nelle lingue antiche, questo saggio di Gugerotti, che riguarda proprio l'invenzione dell'alfabeto in Armenia, teologia della storia nella vita di Mashtok, speriamo di dirlo bene, di Korivn. Dunque il significato che ha avuto proprio la Bibbia per la diffusione nel mondo armeno, nella cultura armena, la diffusione non soltanto della religione, ma proprio della prima istituzione di una cultura. E tutto un fenomeno che per certi aspetti può essere parallelo al fenomeno del cristianesimo antico, dove logicamente la Bibbia non può essere altro stata che la base di ogni ulteriore specificazione, di ogni ulteriore meditazione. Dopodiché possiamo considerare traduzioni che hanno a che fare con la Bibbia, ma in altri ambiti. Primo ambito, naturalmente, è la liturgia. Ed ecco qui il saggio di Giovanni Menestrina, Bibbia e liturgia, riferimenti biblici nell'ordinario della messa in lingua italiana. Questo rapporto essenziale, appunto, tra la presenza della Bibbia nella liturgia della messa. E successivamente altri aspetti della Bibbia in quanto traduzione, certo, traduzione nelle culture moderne, ma oppure traduzione di testi religiosi in culture moderne. Mi spiego meglio. Ecco che sullo sfondo del testo biblico possono esserci sempre state traduzioni di testi di autori, di padri della Chiesa, che sono stati sentiti vivi anche nei secoli successivi, anche se a noi possono sembrare strane, anche in ambienti, in situazioni che noi meno conosciamo, ma che vale la pena tenere presente. Ad esempio, non so, la vita di Atanasio, di Tortelli è una riproduzione in ambito umanistica di testi agiografici precedenti, e questo è un saggio curato da Maria Rosa Cortesi, una studiosa di filologia umanistica. Oppure ecco che abbiamo il caso di traduzioni di testi religiosi dal latino al greco. Questo è un caso insolito che vale la pena sottolineare e tenere presente, perché di solito noi sappiamo che il passaggio è al contrario, dal greco al latino. Noi sappiamo che la maggior parte delle traduzioni nella storia della cultura occidentale ha avuto questo indirizzo dal greco, quando il greco non si conosceva più, non solo nel Medioevo ma anche nella tarda antichità, allora si facevano traduzioni e quindi l'indirizzo era questo, dal greco in latino. Viceversa, i contributi di Antonio Garzia e di Giampaolo Rigotti perseguono un filone di ricerca che va in senso contrario, dal latino al greco. Ecco la novità di cui volevo dire. I greci, soprattutto i bizantini, un po', come dire, con la puzza al naso nei confronti dei latini, nei confronti degli occidentali, in questo caso hanno, come dire, si sono comportati in modo eccezionale, hanno trovato nel De Trinitate di Agostino un testo fondamentale che hanno tradotto, e più volte, oppure anche altri testi religiosi, altri testi di Agostino sono serviti tra il XIII e il XIV secolo, grazie soprattutto alle cure di quell'umanista che fu il monaco Massimo Planude, servirono proprio in un fitto scambio di idee, e quando ci si poteva ancora illudere, sembrava che fosse possibile un'unione tra la teologia greca e la teologia latina, anche se questo periodo, un cinquantennio circa tra la fine del XII secolo, la fine del XIII secolo, i primissimi del XIV secolo, fu, come dire, un periodo di un cinquantennio che poi si concluse miseramente senza portare niente di più, nessun risultato concreto. Mi pare che sia stata questa quasi un anticipo dell'unione del corso dei concili di Ferrara e di Firenze. Questi sono stati dunque i contributi di Garzia e Rigotti. E ricordo, naturalmente, adesso non posso elencare uno per uno perché il tempo corre, tutti gli altri contributi. Ricordo solo questo molto interessante di Paolo Chiesa, Dal culto alla novella, l'evoluzione delle traduzioni agiografiche nel Medioevo latino. Perché appunto, come le vite dei santi nel mondo antico avevano caratteristiche romanzesche, così un po' alla volta anche nel Medioevo latino ci si accorse che le vite dei santi potevano servire come lettura non solo di edificazione ma anche di intrattenimento, per cui le vite dei santi greci tradotte in latino furono di volta in volta modificate proprio a partire dall'XI secolo in poi, perché interessavano proprio da questo punto di vista come testi dai quali si poteva, come dire, apprendere, si poteva migliorare spiritualmente ma anche insieme divertirsi nella lettura. Quanto questo sia possibile non lo so, certo fu ad ogni modo questa un'illusione dell'epoca, o almeno in certi ambiti. Questo, in poche parole, è il contenuto di questo saggio, che spero possa apprezzare, possa incontrare l'apprezzamento degli studiosi e dei lettori nei prossimi anni. E mi soffermerei ancora un attimo adesso sul saggio di Giovanni Menestrina, Tra il Nuovo Testamento e i Padri. Il concetto, certo, si può cogliere ragionando un attimo tra il Nuovo Testamento e i Padri. Non è così ovvio come può sembrare, perché noi dovremmo dire per forza i padri, che padri sarebbero se non avessero studiato il Nuovo Testamento, ma loro sì lo studiavano, siamo noi moderni magari, che invece studiamo il Nuovo Testamento senza studiare i padri, o meno magari, se fate le debite eccezioni, non mi sgridi, signor Roger, oppure sono gli studiosi moderni, studiano i padri e non studiano il Nuovo Testamento. Non è facile fare entrambe le cose, effettivamente. Ottenere la competenza nei due ambiti effettivamente va spesso al di là delle forze dell'uomo, quindi dobbiamo essere un poco, come dire, avere una certa tolleranza in questo caso. E Menestrina, con questo titolo, vuole sottolineare l'opportunità di questo interscambio, di questa osmosi, di questo rapporto continuo tra i due ambiti di ricerca, affrontando in un primo contesto alcuni problemi specifici della cultura, tra virgolette, no? Neotestamentaria, dell'ambito neotestamentario, sul discorso della montagna e poi le parabole nel Vangelo di Tommaso e nei sinottici. Il Vangelo di Tommaso com'è? Forse alla maniera di Norelli lo possiamo considerare insieme al Nuovo Testamento oppure no? Non lo so. Ecco, vediamo quindi. Non so se Menestrina ha fatto come Norelli, appunto, oppure ha considerato appunto anche il Vangelo di Tommaso insieme ai sinottici. E poi terzo contributo, l'immagine delle due vie nei padri apostolici, un'immagine spirituale, le due vie che si presentano davanti all'uomo, la via del bene o la via del male, da scegliere appunto, che comunque è un'immagine che ha avuto ampia diffusione, si trova non solo nel Nuovo Testamento e nell'Antico Testamento, ma anche nei testi di Qumran, e anche nei classici greci, quindi una visione d'insieme ampia secondo quei criteri che mi sembra che siano più giusti da seguire. Dopodiché ecco che si passa ad esaminare appunto alcuni dei padri della Chiesa, ma soprattutto in rapporto, come dicevo prima, in rapporto al Nuovo Testamento, cioè mi spiego meglio, è ovvio come che i padri della Chiesa il Nuovo Testamento lo conoscevano e a memoria anche, ma in rapporto a certe questioni di esegesi del Nuovo Testamento, e qui logicamente la parte del leone, se posso dire così, la fa Gerolamo, personaggio certo difficile, di cattivo carattere, ma geniale senz'altro, è grande scrittore, e così ecco che saggio dedicato alla visione di Isaia nell'interpretazione di Gerolamo. Ecco l'interesse dei padri della Chiesa per l'esegesi di determinati testi ebraici, determinati testi biblici. Oppure un passo della famosa epistola ai Galati, Galati 2:11-14, qui a Reprehensibilis Erat, nell'esegesi di Agostino e Gerolamo. E appunto è questo il rapporto, il filo che collega, il filo dell'esegesi, il filo dell'interpretazione di problemi biblici da parte dei padri della Chiesa. Oppure l'epistola 167 a proposito di un parere dell'Apostolo Giacomo, no? Ma appunto Agostino si domandava cosa effettivamente avesse voluto dire l'Apostolo Giacomo 2:10 a proposito dell'uguaglianza, di una eventuale dottrina dell'uguaglianza di tutti i peccati. Questo, dicevo, cioè il rapporto tra padri della Chiesa e mondo biblico sul piano dell'esegesi. Chiude il volume una serie di discussioni e note, sul quale posso fare riferimento solo molto rapido, naturalmente. Sono note di carattere lessicale, soprattutto il vero significato o di certi sintagmi o di determinate parole. Sintagma Gesù, Signore anche del sabato, per esempio, oppure il significato di agape, l'amore, nelle lettere di Giovanni, questo termine agape, che come ben sanno soprattutto gli specialisti è un termine estraneo proprio al greco classico, e con precisione non si sa, appunto, cioè non si sa, ha un suo significato specifico. Oppure ancora note linguistiche, alla fine del volume, con una serie di indagini brevi e dedicate all'interpretazione di determinate parole di vario genere, di contenuto spirituale o anche il kikaion, appunto più concreto, quindi contributi che mostrano la conoscenza che Gianni Menestrina ha dell'ebraico. E concluderei qui, naturalmente, se non che non vorrei che l'amicizia che più volte ho attestato per Gianni fosse intesa come dire, una deformazione del mio giudizio positivo, che naturalmente do a questo riguardo, e mi auguro naturalmente che anche questo saggio, non solo per il bene della casa editrice Morcelliana, si intende, possa avere la diffusione che merita. Bene.